Benvenuti. Questo è un luogo sacro, un santuario per chi ha perso tutto. Nessuno qui verrà giudicato. Avrete un pasto caldo e un letto su cui riposare. Seguitemi.